si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Eccoci qua, buona giornata cari ascoltatori, ben ritrovati. L'appuntamento del sabato e della domenica a mezzogiorno su Radio 24 con l'altra cronaca, le buone notizie e le nuove tendenze che ci salveranno subito i contatti. Su Facebook si può fare, trattino Radio 24, su Twitter si può fare 24, io chiocciola Ale Maurizi. Questi i contatti, poi vi ricordo anche che insomma durante la settimana potete chiamarci alla segreteria telefonica all'828-1212 e lasciare, insomma, se ne avete, le vostre iniezioni di ottimismo, le vostre ricette per salvare l'Italia, possibilmente in un minuto. Le più belle le manderemo in onda come abbiamo fatto fino ad oggi. Adesso subito un paio di notizie per entrare nel vivo. Più che altro sono due segnalazioni. La prima è una segnalazione di beneficenza, un'iniziativa che si svolge tra l'altro a partire da domani proprio nel palazzo da dove noi trasmettiamo come Radio 24, cioè Sole 24 Ore. Profit, no profit, un sodalizio possibile. Succede che diverse e marchi noti di moda, pelletteria, gioielleria e quant'altro, ma anche gioielli, giocattoli, faranno una vendita a scopo benefico. La particolarità però è questa, che si troveranno prezzi ribassati di note marche, quindi ci può essere l'interesse da parte di chiunque di venire a vedere se c'è qualche occasione per fare un po' di shopping goloso e poi insomma la vendita sarà devoluta almeno al 50%, se sono ben informato, a queste due realtà che andiamo a dire: ABN, la Onlus milanese con sede presso la clinica pediatrica De Marchi del Policlinico di Milano che si occupa di bambini affetti da patologie nefrourologiche, e poi anche la FATA, Fata Onlus, la Onlus che ospita e sostiene bambini e adolescenti che il Tribunale dei Minori allontana dalla famiglia di origine per maltrattamento, violenza e grave disagio. Insomma, due ottime finalità. E quindi se avete voglia di fare un po' di shopping, via Monterosa 91 a Milano, e questa è un'occasione, dal lunedì a mercoledì, profit, no profit. Questa era una segnalazione, ci tenevamo a farla. E quest'altra invece è un'altra segnalazione che però riguarda gli aspiranti imprenditori, giovani con progetti, con idee nuove. A lanciare questo progetto adesso va di moda, le aziende che si buttano in questo genere di marketing, però sono iniziative buone. La Barilla, per celebrare i 100 anni dalla nascita del fondatore Pietro Barilla, lancia Conquista il tuo futuro. In pratica, andando sul sito Barilla per i giovani, troverete la possibilità di inserire la vostra idea per migliorare il pianeta e la qualità della vita delle persone. Potete raccontarla su barillaperigiovani.it. Le idee più belle fino a 10 vinceranno una borsa di studio del valore di 40.000 euro. Avete capito bene? Idee per migliorare la vita di tutti, premiate con una borsa di studio di 40.000 euro, sul sito barillaperigiovani.it. E questa era l'altra segnalazione. A proposito di lavoro, c'è una bella storia da cui iniziamo oggi, ci porta ad Avezzano, nella Marsica, uno stabilimento che poteva chiudere, stava per chiudere, invece poi c'è stata una svolta, c'è qualcuno che si è messo in gioco, si sono salvati 1.600 posti di lavoro. Di un anno fa sembrava che lo stabilimento di Avezzano, proprietà della multinazionale americana della microelettronica Micron, una grandissima azienda, dovesse chiudere, e insomma si dovessero perdere anche tutti i posti di lavoro. C'era già gente in cassa integrazione e questi 1.600 posti sembravano tutti a rischio. Poi si è cominciato a ventilare una svolta, una società tedesca che poteva subentrare anche, però, e questa è la notizia che ci interessa ancora di più, con la partecipazione del management italiano proprio della Micron. E c'è una persona che si è messa in gioco, in particolare lo abbiamo convocato, Sergio Galbiati, buongiorno intanto. Buongiorno. Ex vicepresidente della Micron a livello internazionale, quindi è giusto, no? Sì, è giusto. ex, perché a un certo punto lei ha fatto quello che nessuno quasi mai fa, passare da uno stipendio sicuro e anche altino, non le chiedo di dire quanto perché c'è il segreto su questo, vicepresidente di una multinazionale, a imprenditore, cioè ha detto me la compro la fabbrica che questi vogliono chiudere. Ora io ho brutalizzato, però è successo sì. Questo? Sì, diciamo che è una schematizzazione piuttosto brutale, colorata, però è abbastanza fedele. Sostanzialmente il punto è che io sono cresciuto professionalmente in questo stabilimento, anche se poi negli ultimi 2-3 anni, che è stato quando sono diventato vicepresidente sì. All'interno della corporation, sono andato anche a occuparmi degli altri stabilimenti italiani che Micron sì. Nel tempo aveva acquisito. E quindi sono rimasto un po' alla periferia di quello che avveniva ad Avezzano, pur mantenendo un forte contatto, perché comunque avevo, diciamo, una responsabilità indiretta anche di questo sito. Chiaramente quello che stava succedendo è che pur essendo questo sito fornitore di un leader mondiale nel suo settore, era arrivato al punto in cui dovendo crescere o faceva in quell'ambito un salto molto, molto importante, oppure doveva essere capace di differenziarsi. E Micron non aveva nelle sue corde la possibilità di rimanere in quell'ambito, quindi doveva per forza trovare un modo per consegnare questo sito a qualcun altro. Le difficoltà che trovavamo dopo un anno di ricerca era che molti possibili potenziali acquirenti si scontravano col fatto che venire in Italia e decidere di acquisire una realtà di questo tipo in Italia. Cioè, già solo il fatto di sentir parlare d'Italia, c'erano investitori quindi purtroppo ci conferma che questo sì. Problema c'è, insomma. Vabbè. Però sì. Intanto voi siete riusciti ad aggirarlo in un modo che adesso poi andremo raccontando, perché ora sta nascendo una joint venture con questa L Foundry, società tedesca, al 50% loro, il 50% il management italiano, a partire da lei. Adesso facciamo una pausa per il traffico e poi torniamo con il racconto di quella che adesso, come si chiamerà il nuovo stabilimento? Si chiamerà Marsica Innovation and Technology. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Di nuovo con Sergio Galbiati e con il progetto, anche un po' il sogno, no? Della Marsica Innovation Technology. Dico il sogno un po' perché siamo partiti con la canzone di Springsteen, ma anche perché sembra un po' un sogno, no? Cioè la difficoltà, lei ci stava raccontando, di trovare acquirenti per far andare avanti una fabbrica che aveva bisogno di cambiare un po' strada, di innovarsi. Eravamo rimasti sul fatto che si faceva fatica a trovare gli acquirenti perché a sentir parlare d'Italia in giro per il mondo storcevano un po' la bocca. Sì, avevano paura di imbarcarsi in Europa in genere e anche in Italia. Però tanto vero che ma poi... è un pregiudizio oppure è una realtà poi questa? Secondo me è un misto delle due cose. Non è facile, ma insomma il fatto che noi ci proviamo è perché pensiamo di riuscirci, quindi non è impossibile, anzi a livello di competenze di base... Per voi è stata quasi una manna dal cielo il fatto che non si sia trovato un acquirente per la fabbrica di Avezzano subito, perché poi vi è venuto in mente in questo frangente a lei e ai suoi collaboratori di fare questo passaggio, cioè di passare da manager a imprenditore. Com'è avvenuto magari facendo un sondaggio con i dipendenti, lì per lì avrebbero preferito entrare in un'altra grande multinazionale. Certo, eccetera. Perché è più rassicurante sempre. Rassicurante. Oggi non lo so, oggi penso che anche il livello di fiducia un po' stia aumentando con tutte le difficoltà del caso, andremo a vedere. C'è state tante quello che è successo è che alla fine un acquirente l'abbiamo trovato, un europeo, però la questione era che era ed è molto piccolo, molto più piccolo rispetto a quella che è Micron, chiaramente. Anche loro nati da una situazione abbastanza analoga, quindi da subito loro hanno mostrato interesse a unire le forze con il management locale, hanno da subito cercato di capire se anch'io potevo far parte della compagine, e quindi non abbiamo dovuto sfondare porte, ecco, per imbarcarci su un discorso di joint venture, compreso anche il fatto magari di avere la possibilità, così facendo, di fare un discorso anche nei confronti delle istituzioni italiane, sì. Spiegazioni di dove andavamo a parare e del fatto che questo era fino a quel momento era una crisi, ma poteva diventare uno start-up. Questo è il vero concetto. Che cosa produce lo stabilimento di Avezzano, se riusciamo a dirlo con parole semplici? Da sempre è uno stabilimento di semiconduttori, quindi microchip, per tantissimi anni ha fatto memorie, quando poi non ce la faceva più a livello tecnologico, da 5 anni è il fornitore esclusivo di Aptina, che è il numero 4 al mondo come fornitore di sensori di immagine. Sono quei chip, microchip, che servono per catturare immagini, fotocamere sostanzialmente, per catturare immagini, elaborarle e poter digitalizzare tutto ciò che è appunto immagine. Mm-hmm. Questa è la nostra unica attività a oggi, ovviamente sì. Con la missione per il futuro sarà quella di diversificare le nostre capability tecnologiche, che sono molto molto importanti nell'ambito di tutto ciò che non è digitale e analogico. Questo è un discorso un po' da specialisti, però sostanzialmente il mondo dell'elettronica si può dividere in due grosse categorie. Sì. Pensiamo di poter essere dei leader in tutto ciò che è analogico. Come, che cosa è scattato un po' nella sua mente? Questo però ce lo deve dire, perché insomma è importante capire anche al di là poi della, del possibile investimento, no? che lei si imbarca a fare, no? Può dire certo è facile, ma non è facile passare da avere lo stipendio di vicepresidente di una multinazionale, avere un sacco di privilegi, di vantaggi eccetera, a dire mi metto in discussione io in prima persona con i miei risparmi e insieme ad altre persone passo e rischio, perché dal giorno dopo in cui verrà fatta questa joint venture sarà tutto ufficiale, insomma poi la Micron non c'è più, ci siete voi. Sì, infatti io mi sono dimesso da Micron alla fine di aprile. Il passaggio è stato sostanzialmente guidato dalla consapevolezza che diciamo tra i miei ex colleghi e le persone che hanno lavorato con me per tanti anni c'era una forte, diciamo, forza di traino nei miei confronti a condividere questa avventura, e devo dire questo. Quindi un team locale, anche, che si è creato, insomma un gruppo di persone. Quindi sia il team di italiani, e poi devo dire anche una progressiva volontà da parte dei nostri futuri colleghi tedeschi a chiamarmi. Quindi io sono potenzialmente ero un anno dalla pensione, chiaramente probabilmente non ci sarei andato. Quindi doppiamente folle la sua scelta, Galbiadi, sì, se sì. Posso. Molti dicono temerario, ma io non riesco a capire perché ritengo che se questo tipo di scelte non lo fa gente che ha 30 anni di esperienza sulle sì. spalle, che è considerato comunque qualcuno che può dire la sua. Certo, chi lo deve fare, dice giustamente lei, certo, è ovvio. Grazie per quello che fa, in bocca al lupo, e insomma vi terremo d'occhio, speriamo che vada tutto bene. Posso prendere altri 10 secondi? 10. Solo per dire che la parte italiana della proprietà, il 50% italiano, sì. sarà un azionariato diffuso, intendiamo dare azioni di proprietà della compagnia a tutti i dipendenti. Anche questo è importante. Quindi un processo che si metterà in moto piano piano, lei praticamente andrà cedendo alcune delle sue quote a favore dei dipendenti. Esattamente. Benissimo, un'altra buona notizia forse, se possibile. Nella buona notizia, sappiamo tra l'altro che i tedeschi su questo anche sono un po' fissati, e quindi è un modo per andare più d'accordo anche col partner tedesco, forse, non lo so. Sì, vedremo. grazie. Grazie a voi. E questa era la notizia da Avezzano. Tra l'altro la settimana prossima parleremo di un progetto dove gli ex manager tornano in pista per aiutare le nuove imprese. Si chiama Back to Work, settimana prossima. Adesso dalla microelettronica ad una cava di marmo. Ho perso il mio paese è andato a fuoco e tutti i miei ricordi ora puzzano di fumo. La mia città è crollata, c'è stato il terremoto e in mezzo a tutti i resti oggi piange il mio futuro. Ho detto una cava di marmo, ma in realtà è una cava di tufo, cava Morelli a Tivoli, nella quale si svolgerà uno spettacolo. Protagonista di questa iniziativa originale che insomma mette il dito nella piaga tra lavoro e ambiente è Simone Saccucci, che noi abbiamo già trovato qualche mese fa. Buongiorno Simone, intanto. Buongiorno. Autore, attore, protagonista di una sorta di teatro canzone che parte dall'esplorazione delle periferie di Guidonia, sì. Che poi va allargandosi con vari progetti. Questa volta sei finito a fare uno spettacolo in una cava, è così? Sì. L'idea alla fine, siccome purtroppo non sono né un attore né un narratore e quindi lo spettacolo che si chiama Rocce, Spine e Streghe lo porto come pretesto, sì, dentro a dei posti come questa cava di Travertino nella zona di Tivoli, per far entrare i cittadini dentro quei posti che di solito sono quasi sempre oggetto di polemica e proteste, senza tener conto di, secondo me, mio modesto parere, di alcuni elementi importanti, tipo per esempio l'equilibrio fra il lavoro e l'impatto ambientale. Ecco, questo è il nodo, esatto, un po' di questo spettacolo. Simone, esatto, Saccucci, che non è attore, è autore, è protagonista, perché lui nella vita fa un altro, sì, lavoro, fa l'operatore sociale, sì, esatto, però esatto, si diletta in modo non troppo dilettantesco in questa si cimenta in questa cosa dello spettacolo e teatro canzone. Sì. Cosa viene fuori in questo spettacolo sulla cava di Tivoli? Allora, lo spettacolo porta in scena, o almeno prova a portare in scena le facce, i fatti di uno di quei tanti luoghi che vengono chiamati dormitorio, appunto la mia zona, Guidonia Montecelio, e esce fuori della cava un'idea comunque di un posto che fa parte dell'identità di chi abita in questo luogo. Dolenti o nolenti, quindi in un certo modo è un po' un provare a passare il messaggio che forse per cambiare certe situazioni dobbiamo prima di tutto accettarle e in un certo senso sentirle come una parte dell'identità nostra, sì, e poterci poi ragionare un pochino più attentamente, magari al di là di alcune cosa, sì, c'è da accettare qua per quanto riguarda la cava, qualcosa che bisogna, qualche rospo che bisogna mandare giù. Tra l'altro ricordo che Simone va in giro parlando con la gente del posto, sì, proprio per cercare di tirar fuori le storie che dal passato ci diano anche una lettura del presente. Quindi diciamo quello che lui racconta è un po' quello che ha assorbito dalla, sì, gente del posto, non è che sono cose che vengono fuori solo dalla sua testa, insomma. Sì, esatto, sì, sono pochissime cose mie, io cerco di incollare i pezzi e rendere il tutto un pochino più organico e renderlo un pochino più spettacolo, ecco, diciamo così. E della cava esce soprattutto che innanzitutto è un posto di lavoro. Ora, in questo periodo storico, nel nostro piccolo a Guidonia, come in tutta Italia, si sa, insomma, c'è, come dicono, grossa crisi. E quindi dire una cosa del genere, dire, accettare il fatto che un'azienda o comunque un lavoro come l'estrazione del Travertino sia offerta di lavoro e quindi tralasciare tutti gli elementi che però devono essere rispettati, quindi l'impatto sull'ambiente e quindi il rispetto dell'ambiente, è un po' un pensiero un pochino che deve essere preso con le pinze, ecco, perché anche se offre lavoro deve essere comunque tenuto sotto controllo. Però in questo periodo sembra quasi che non ci possiamo permettere il lusso di verificare aspetti collaterali o secondari collegati al lavoro. Pensiamo solo alla questione dell'Ilva, dove insomma tutti si preoccupano soprattutto dei posti di lavoro. Poi sembra quasi che la salute delle persone sia un fatto secondario. Non dovrebbe essere così. Quante persone lavorano in questa cava? Diciamo che sia gli operai, è una grossissima percentuale del territorio, insomma anche l'indotto, ragazzi molto, molto, sì, giovani, e in più anche tutto l'indotto, e quindi i bar, le trattorie, eccetera, eccetera, parliamo di una grossa percentuale insieme al cementificio. Sono i due enti che storicamente hanno dato lavoro al nostro territorio e al territorio circostante. Il tuo lavoro, Simone, sì, scusa, è piaciuto e piace anche all'estero. Andrai a Londra, sì, esattamente, sì, a fare che cosa? Allora, l'altro anno sono andato a Londra a raccontare queste cose, e quest'anno invece vado a Sheffield, vicino Manchester, e sì, vado a fare la stessa cosa, vado a riraccontare queste cose con il mio inglese approssimativo. Non ci capiranno nulla, assolutamente, perché... No, spero che tu sia in grado invece, anzi sicuramente lo sarà, se no non ti avrebbero rinvitato per il secondo anno di seguito. Immagino sì. Cioè, abbiamo voluto provare a aprire anche questa finestra a Guidonia con il lavoro di Simone Saccucci, il suo teatro canzone, che va in giro, avete sentito, in luoghi che hanno qualche significato per tutti noi, questa volta una cava Morelli a Tivoli, per cercare di capire un po' quali sono gli umori, come si vive attorno a queste questioni qua. Simone, grazie per essere stato di nuovo con noi. Lo spettacolo poi ha delle date, vogliamo ricordare qualche data? Sì, allora il 25 maggio c'è questo evento in cava, a settembre starò dentro le cementerie Buzzi Unicem, sì, sempre per lo stesso discorso, e poi ci fermiamo perché a ottobre parto e vado in Inghilterra per l'altra data a Sheffield. Buon viaggio e soprattutto, grazie, buoni spettacoli. Grazie mille.